Strip Trip, un viaggio nel mondo dei fumetti con Alessandro Chiarella. Hola, buonasera a tutti, benvenuti, questa è Radio Bawalla e questa è la quinta puntata di Strip Trip. Io sono Ale, in regia sempre il Davide che ci accompagna con musica e bella musica. Musica Creative Commons, perché Radio Bawalla trasmette solo musica Creative Commons, quindi free, potete andare a cercarvi i testi che i gruppi che vi diciamo e li trovate su Jamendo, ad esempio, scaricabili free senza nessun problema. Allora, quinta puntata di Strip Trip, questa sera parliamo di cinema e fumetto. Non so se ci seguite su Facebook, se non lo fate seguiteci, mettete il like sia sulla pagina di Radio Bawalla che sulla pagina di Strip Trip, perché abbiamo aperto da poco, ci sono ancora pochi follower, però stiamo cercando di crescere. Io cerco sempre di postare roba più o meno interessante e a parte questo spero che vi rendiate conto che piano piano io un pochino mi sto sciogliendo, sempre meno impapocchiamenti, qua c'è un pochino più di tecnologia ogni volta, quindi la cosa diventa sempre un pochino più agevole, anche se ogni tanto qualche intoppo, vero Davide? Ai ai ai, ma non importa, noi testa dura andiamo avanti assolutamente. Dicevo, oggi parliamo di cinema, fumetti, rapporto, considerazioni. E in particolare parleremo nello specifico di un autore molto molto molto molto particolare, ma molto molto importante. Adesso vi lascio con il primo pezzo di questa sera. L'artista probabilmente già lo conoscete perché non è la prima volta che lo passiamo, sono i Fresh Body Shop. A me piacciono molto e questa è Enjoy the Apple. Thank you. E allora ci piacciono o no? A me piacciono. Quindi se non vi piacciono, sì, vostri. Anche perché la scaletta di questa sera e della prossima puntata le ho scelte tutte io. Qualsiasi cosa non vi piace, non va bene, è fantastica, vi piace tantissimo, è tutta colpa o merito mio. Quindi beh, a me piace, io sono molto soddisfatto. Adesso mi direte poi magari a fine puntata cosa ne pensate. Me lo direte dove? Sulla pagina Facebook, ovviamente. Perché? Perché abbiamo aperto la pagina Facebook. Mi raccomando, seguiteci. Allora, abbiamo detto che questa sera parliamo di cinema. Cinema e fumetto. Chi di voi non ha mai visto un film tratto da un fumetto? Immagino nessuno, perché soprattutto dagli Stati Uniti continuano a sfornare in maniera esagerata qualsiasi tipo di film. Da Spider-Man hanno tirato fuori ancora la Lanterna Verde. Poi ovviamente ci sono i grandi classici come Superman, che ultimamente è ritornato in auge con un paio di film. Dylan Dog, avete visto il film di Dylan Dog? Ahimè, un po' una trashata, a me non è piaciuto perché non rispecchia il vero Dylan Dog, però che si può fare, sono americani. E beh, poi c'è Batman ultimamente ha veramente spaccato con la trilogia di Christopher Nolan, che secondo me tra le migliori interpretazioni di Batman proprio di sempre, insieme anche al almeno a me piace anche il film di Tim Burton, sempre Batman, diretto da Tim Burton dell'89, mi pare 89-90, che mi ricorda un po' l'infanzia, e quindi quando lo rivedo ancora adesso è un po' di, non so, un po' di piacere lo provo, anche se noto che purtroppo non è più tanto moderno come film. Comunque questi sono solo alcuni dei film tratti dai fumetti. Oltre a tutta la scena supereroistica e americana, c'è anche un paio di film che arrivano da un autore inglese. Che film sono? Sono Watchmen e V per Vendetta, V for Vengeance, che sono entrambi tratti da due graphic novel sceneggiate da Alan Moore. Chi è Alan Moore? Alan Moore è uno sceneggiatore, appunto. Vi ricordate la scorsa puntata quando vi raccontavo dello sceneggiatore, di che lavoro fa lo sceneggiatore, e che nel fumetto lo sceneggiatore è proprio un lavoro, una figura molto importante? Ecco, Alan Moore è un signor sceneggiatore. Questa sera parleremo un po' di lui. Vi passo ancora un pezzo che riguarda, in un certo senso riguarda Alan Moore, perché si intitola Borderline. E perché riguarda Alan Moore? Beh, ve lo racconto tra poco. Borderline dei Brad Sachs. Best friend that I have. Sometimes I wish I was dead. I just got back from the doctor's office, and all the tests came back negative. So I don't know what rash you got, but you didn't get it from me. Alan Oswald Moore, fumettista, scrittore, compositore, cantautore e occultista. Insomma, una persona particolare, appunto un po' borderline forse, ma nel senso, nell'accezione buona della cosa. Perché? Perché, vi racconto qualcosa di lui. Questo è britannico, quindi inglese. E si presenta con barba e capelli foltissimi, molto, molto lunghi, barbone, proprio cappelloni, cieco da un occhio e sordo dall'orecchio opposto, cioè occhio sinistro e orecchio destro, viceversa, non so più. Un'adolescenza un po' scapestrata, taglia spesso la scuola per andare alle varie fiere dei fumetti, già appassionato da ragazzo, e a un certo punto del suo percorso scolastico, molto tranquillo, diciamo, si fa beccare a spacciare l'SD. Quindi ovviamente viene licenziato da scuola, lascia la scuola e il preside della scuola lo evita che lui possa iscriversi in qualsiasi altra scuola della zona, e quindi non può più continuare gli studi e va a lavorare. Va a lavorare, si sposa e a un certo punto si rompe il cazzo e ricomincia a disegnare, a un certo punto lascia il lavoro e piano piano si fa strada nei fumetti, poche cose prima, poi pian piano qualche striscia pagata e comincia a riuscire a viverci. Riesce a sfondare nel fumetto supereroistico, prima inglese ovviamente, sul mercato inglese, ottiene abbastanza successo e nei primi anni 80 arriva uno dei suoi primi grossi lavori, che è V per Vendetta, appunto. E lui è produttivissimo, scrive un sacco di cose per i fumetti, tra cui anche Superman e Green Lantern. Ma V per Vendetta insomma, ha molto successo e da qui riesce anche a farsi vedere sul mercato statunitense, così che poi comincia a lavorare per il mercato statunitense. Sempre negli anni 80 scrive anche Watchmen, che all'inizio è una serie, e insieme al Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller. Spero qualcuno di voi conosca Frank Miller, è quello che ha scritto anche 300 e Sin City e, Watchmen e il Ritorno del Cavaliere Oscuro inaugurano un po' l'era cupa dei supereroi, l'era più oscura, dove si comincia a vedere anche il lato più debole, più emotivo del supereroe, cioè non solo la scorza, quella tosta e fantastica del supereroe imbattibile, ma anche un po' i complessi e i problemi che ci sono dietro la maschera, ecco. Tra l'altro il Ritorno del Cavaliere Oscuro è l'opera da cui sono tratti, da cui Christopher Nolan ha preso spunto per la trilogia di Batman, quindi anche Frank Miller, spero riusciremo a parlarne un giorno, è molto importante in questa accezione del supereroe. Adesso ci ascoltiamo ancora un altro pezzo e poi cominciamo a parlare di Watchmen. Il pezzo è Obscured by Lies degli Emerald Park. We'll be right back. keep out of sight. We made up our sanctuary, a castle built out of lies. E rieccoci. Come promesso, parliamo di Watchmen. Watchmen è un'opera, a parer mio, titanica. Fumetto diviso in 12 capitoli e in tutto sono oltre 400 pagine, insomma un bel mattone. E pare che la sceneggiatura scritta da Alan Moore fosse lunga, cioè la sceneggiatura di un capitolo fosse lunga quanto tutta l'opera, quindi più di 400 pagine di sceneggiatura per un dodicesimo di capitolo, cioè un dodicesimo del fumetto intero. Insomma, un'opera, cioè un lavoro quasi epico, una cosa sontuosa per un fumetto che insomma, una roba veramente, veramente enorme. Scritto strabene, una storia fantastica, molto articolata, e il fumetto, per la prima volta nella storia, questo fumetto, Watchmen, vince un premio letterario, il primo Hugo, quindi una roba veramente fantastica, è una cosa che non era mai successa, quindi veramente un pezzone di fumetto che 20 anni dopo viene trasposto nel cinema, quindi diventa un film. E secondo me un gran film, molto molto simile al fumetto. La storia è articolata, è ben articolata e non, secondo me non si distacca troppo dal fumetto. Ovviamente ci sono meno particolari, alcune cose non si trovano, ma a me comunque il film è piaciuto tantissimo, quasi quanto il fumetto, sì, assolutamente. E, la storia è ambientata verso la fine della Guerra Fredda, in questo mondo dove ci sono i supereroi un po' in crisi perché si sono ritirati, questo gruppo di supereroi si è ritirato e ognuno si è diviso e fa la propria vita. Molti sono diventati agenti del governo piuttosto che collaboratori del governo statunitense e cose del genere, finché un giorno un agente del governo viene ucciso e si scopre che questa persona era uno di questi supereroi, detto il comico. E quindi da questo omicidio si scatena poi tutta la storia, ci sono degli sviluppi molto, molto, molto interessanti, perché Alan Moore lavora molto sul... non so come spiegarvi, dovete assolutamente vederlo perché innesca un punto di vista diverso, perché in un certo senso rispecchia anche la nostra realtà, la crisi di questi supereroi, rispecchia un po' la crisi mondiale che si fa fuori, la crisi d'identità che viene fuori anche per gli Stati Uniti in un certo senso dopo il periodo della Guerra Fredda. Un'opera che secondo me apre un po' gli occhi, ci sono molte critiche velate accompagnate tutte da personaggi fantastici. Appunto, dopo l'omicidio c'è un personaggio in particolare che si scatena, che comincia a indagare, che è Rorschach. Rorschach per me è il personaggio migliore del fumetto e anche del film. Perché la sua maschera è fatta da disegni che sono il test di Rorschach. Non so se avete presente, ma il test di Rorschach è quel test che gli psicologi, si vede spesso nei film, fanno ai loro pazienti. Sono in pratica quelle macchie di inchiostro che si presentano al paziente e gli si chiede cosa vedi qua. E quindi poi nel film è fatto benissimo, perché queste macchie continuano a muoversi sul viso di Rorschach, e lui è particolare perché in effetti lui è un po' psicopatico, diciamo, un po' pazzo, vede boh, quando ci sono questi vuoti mi piglia il panico, poi non riesco più ad andare avanti, mannaggia, vabbè. diciamo fa l'investigatore, uno che non usa mezzi termini, va giù di botte, quando deve interrogare qualcuno giù schiaffi, e, insomma molto particolare, molto, molto bello. Poi c'è il dottor Manhattan, che è un po' la contrapposizione. Il dottor Manhattan ha avuto qualche problemino con dei test nucleari o cose del genere, quindi è diventato un super super super eroe, vede il futuro, sa tutto, è una grande mente, riesce a manipolare la materia, insomma fortissimo, una roba fantastica, indistruttibile, eccetera eccetera. E, però contrapposto a questo aspetto, il dottor Manhattan ha dei seri problemi con la sua ragazza, e quindi c'è anche qui, anche nel super super supereroe, si vede il lato tra virgolette debole, i problemi della vita reale di questi supereroi. Tra l'altro, chi è la ragazza del dottor Manhattan? È Spettro di Seta, un'altra supereroina, e tra l'altro nel film è interpretata da Malin Ackerman, che non so se sapete chi è, ma diciamo che tutto sommato a me non dispiace come personcina, ecco. Bene, dai, vi lascio ancora con un pezzo, un gran pezzo, a me a Davide piace molto, sono gli Studebaker's Blacksmith Shop con BCP. As a bunch of grapes all have bentornati. Stavo discutendo con Davide di questa faccenda dei supereroi. Ci chiedevamo da cosa viene fuori questa decadenza di supereroi, il guardare dietro la maschera di supereroi. Ma secondo me è una questione di guerra fredda, insomma i supereroi sono prettamente statunitensi e una volta finita la guerra fredda non si ha più la minaccia costante sovietica addosso, vediamola sempre dal punto di vista statunitense, questa minaccia continua e costante, quindi ci si chiede un po' ma che cazzo ce ne facciamo di Capitan America adesso? E allora si comincia a guardare un po' dietro. Cosa fanno i supereroi quando non c'è nessuno da combattere? Cosa c'è dietro il super figo, lo scudo di Capitan America? E allora si comincia a ragionare così. Un po' si comincia a pensarla così e un po', secondo me, si può cominciare a farlo perché non c'è più il bisogno di avere lo statunitense forte e imperturbabile che protegge contro la minaccia nucleare, ecco. Insomma, questa è una piccola zona filosofica di Strip Trip. Adesso ricominciamo a chiacchierare di cose un pochino più leggere. E raccontavamo di Watchmen, di Alan Moore. Alan Moore, ultimamente sono usciti molti dei suoi film. La cosa curiosa è che non ha mai voluto che il suo nome comparisse nei titoli di coda, non ha mai voluto firmare la sceneggiatura dei film tratti dai suoi fumetti, che tra l'altro film che sono tantissimi, più di quanti possiate pensare. Abbiamo parlato di V per Vendetta, di Watchmen, ma anche La leggenda degli uomini straordinari, La lega dei fantastici gentlemen, mi sembra che sia il fumetto. E anche questo bel film, secondo me, molto più bello il fumetto, e il film vede un po' sempre questo aspetto lato dei supereroi, però nello scorso secolo, cioè tra il XIX e il XX secolo, c'è un po' il passaggio di testimone tra i supereroi del XVIII secolo e quelli del XIX, quindi un po' il passaggio di testimone tra la Gran Bretagna, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. È molto particolare, guardatelo, secondo me è molto apprezzabile. Tra l'altro, non vorrei dire una cazzata, ma da poco c'è stata una riedizione del fumetto della Bow Publishing, ma non sono sicuro, mi informerò, vi farò sapere. Oltre questo anche Constantine, altro film uscito negli ultimi 6-7 anni mi sembra. Io non l'ho visto, quindi non vi posso raccontare granché, ma pare sia molto bello, quindi lo guarderò di sicuro e magari vi racconterò qualcosa. E poi primo tra i film tratti dagli scritti di Alan Moore è La vera storia di Jack lo Squartatore. Mi sembra che il fumetto si chiami From Hell. Ovviamente parla di Jack lo Squartatore, quindi ambiente anche qua molto cupo, ambientato a Londra, eccetera eccetera. Insomma, abbiamo parlato tutta la sera praticamente di Alan Moore, personaggio molto particolare, ma una colonna del fumetto degli ultimi 30 anni, primo a vincere un premio letterario per un fumetto, quindi non per un libro ma per un fumetto. E beh, con questa puntata, con la quinta puntata, iniziamo un po' il viaggio di Strip Trip nel mondo del cinema, tra il cinema e il fumetto. Ne parleremo almeno sicuramente per un'altra puntata. E beh, seguiteci sempre e comunque, seguitemi su Facebook, seguite Radio Abawalla, e noi ci risentiamo la prossima settimana con una puntata di cui parleremo ancora di cinema e in particolare di Scott Pilgrim. Magari divagheremo anche un po' sui social e beh, ci sentiamo la prossima settimana. Io vi lascio con l'ultimo pezzo che è Kaleidoscope degli Effervescent. Ciao belli, buona settimana. Watch my dirty window in my sleep. I wake up and I mess it up again. You don't know I'm here. You don't know the measures that I take to keep you here. But hello, it's my pleasure to see this transformation in this room. A canvas comes to life and starts to bloom. You don't know that I've been painting you forever. And hello, it's my pleasure. Avete ascoltato Strip Trip, un viaggio nel mondo dei fumetti con Alessandro Chiarella, in onda ogni domenica alle 21:00.